Mare, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Da Crotone ai Balcani, flusso di migranti senza tregua. I numeri sono chiari, il gelo non ferma gli ingressi ai nostri confini. Le reazioni in regione dopo la vittoria di Elly Schlein, ampia affermazione della nuova segretaria del PD a Trieste. Verso il voto per regione e comuni del 2 e 3 aprile, fino a mezzogiorno di oggi la presentazione delle liste per le comunali. Sviluppo della montagna da ripensare, manca la neve, si scierà con alti costi sempre più in quota, anche sull'artificiale. Settore nautico in crescita, ma mancano ancora posti barca e servizi per soddisfare la richiesta del turismo del mare. A Trieste a luglio in prima nazionale il Fantasma dell'Opera, musical dei record dal suo debutto, è stato visto da 145 milioni di persone. Confinare, in un documentario, il viaggio degli universitari di Trieste e Udine ad Arbe, dove furono rinchiusi oltre 20.000 tra sloveni, croati ed ebrei. 7 e 19 minuti di martedì 28 febbraio. Buongiorno da Daniele Lettige, Rita Micoli. Uno sguardo al meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Alle 6 a Trieste c'erano 3 gradi, vento da est, nord-est, bora a 50 km orari con raffiche che hanno raggiunto i 76. Udine e Pordenone 4 gradi e mezzo, Gorizia 3 gradi e 5 decimi. A Tolmezzo meno 5 decimi di grado, a Forni di Sopra meno 3 gradi, a Tarvisio meno 4, a Sappada e sul Piancavallo meno 4 e mezzo, sul Monte Zoncolan meno 10 gradi, sul Lussari meno 11 gradi e 5 decimi, sulla costa Lignano 5 gradi e 5 decimi, a Grado 3 gradi e mezzo. Queste invece le previsioni. Per oggi cielo in genere poco nuvoloso o variabile, con maggiore nuvolosità al mattino e nel Tarvisiano, dove non si esclude qualche debolissima nevicata. Soffierà bora sostenuta sulla costa, anche forte a Trieste e sul Carso, vento moderato dal nord-est sulle altre zone. In apertura, dopo il tragico naufragio di Crotone di sabato notte, c'è la questione migranti. La rotta balcanica passa dalla nostra regione ed è sempre più affollata, nonostante il freddo. Gli ingressi di gennaio sono stati più di 1.100, quasi 10 volte quelli dello stesso mese di un anno fa. Sono un afghano di Kabul. 5 mesi fa sono uscito dal mio paese per raggiungere l'Europa. È giunto nella notte a Trieste ed è subito pronto a ripartire destinazione Francia. Mohamed, afghano di 30 anni, che incontriamo al centro diurno di via Udine a Trieste. Con lui altri 47 migranti sono arrivati dalla rotta balcanica. Poche ore prima ne erano arrivati altri 41. È così ogni giorno a Trieste, dice il prefetto Pietro Signoriello, che snocciola i numeri degli arrivi. Se a gennaio 2021 erano 129 i nuovi ingressi, a gennaio 2022 176, quest'anno, gennaio 23, ben 1.106 persone. Il flusso è continuo, è pressoché inarrestabile. In alcuni periodi come questi, più rigidi, forse ci si sarebbe atteso che ci potesse essere un'entità di arrivi minore, e invece così non è. Ad influire anche, dice il prefetto, l'ingresso della Croazia in UE. È un fatto oggettivo, c'è un confine in meno, per cui insomma da questo punto di vista il passaggio è sicuramente più facile che in passato. 1.400 le persone che al momento il sistema Trieste può accogliere, ma ogni notte almeno 150 quelli che non hanno un posto dove stare. Gianfranco Schiavone, a capo di CS, parla di liste d'attesa di 2 mesi per trovare un tetto ed è pronto ad intraprendere azioni legali contro il Ministero dell'Interno. La legge è molto chiara, la persona che chiede protezione internazionale o chiede asilo e che non ha mezzi di sostentamento ha diritto a un posto di accoglienza, non è un'opzione. Ovunque in Italia sono ormai sorti molti contenziosi di questo tipo e in tutti i casi i tribunali hanno condannato l'amministrazione pubblica, obbligandola a provvedere e anche hanno ordinato un risarcimento del danno nei confronti delle persone che sono state abbandonate. Scade la prossima settimana un bando per 300 nuovi posti d'accoglienza, ma sempre più spesso queste gare vanno deserte e i trasferimenti in altre regioni vanno a rilento. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La politica. La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico ha colto di sorpresa buona parte del PD. In regione la deputata emiliana ha ottenuto quasi il doppio dei voti di Bonaccini. Ora però, fanno notare molti esponenti locali, comincia la parte difficile. Fra gli esponenti regionali del PD è la senatrice Tatiana Rojc a toccare il punto più sensibile in queste ore nel suo partito. La sfida adesso, dice, sarà tenere insieme le anime diverse e le varie provenienze. La preoccupazione fra i Dem, che in Friuli Venezia Giulia hanno di fronte le elezioni regionali, è appunto questa. E lei, la neosegretaria Elly Schlein, nella prima uscita pubblica non a caso assicura: il PD si aspetta di tenere insieme le sue storie e le culture che lo hanno forgiato. In regione ha ottenuto il 63,5%, ha doppiato Bonaccini, ha avuto 10 punti oltre la media nazionale. A Trieste ha toccato il 74%, recuperando gran parte dei voti andati a Cuperlo in prima battuta. Per l'intero gruppo dirigente è stata una sorpresa. La soddisfazione sta nella partecipazione alle primarie di 15.700 fra iscritti e simpatizzanti, con tante facce nuove, dicono gli osservatori interni, gente mai vista prima. Il cambio sarebbe soprattutto merito loro. Renzo Oliva, segretario regionale, dice che questo entusiasmo farà bene al PD per la competizione amministrativa, le regionali soprattutto, a cui manca poco più di un mese. Ed Enzo Martinez, della mozione Schlein, ricorda che occorre una politica con una sua radicalità, perché il PD deve opporsi alla destra. Ma c'è chi teme che lo spostamento a sinistra del partito muoverà voti all'interno del centrosinistra senza portarne di nuovo. Un recupero sui partiti a sinistra del PD, forse anche sui 5 Stelle e sull'astensionismo, ma col rischio che pezzi di elettorato moderato restino a casa o scelgano il terzo polo. Ecco la scommessa del gruppo dirigente locale e nazionale. Deborah Serracchiani mette a disposizione la sua carica di capogruppo alla Camera, ma invita ora tutti al lavoro per costruire l'alternativa alla destra. Antonio Cajazza, TGR Friuli Venezia Giulia. E prosegue la marcia di avvicinamento alle prossime elezioni regionali e comunali del 2-3 aprile fino alle 12 di oggi. È ancora possibile presentare le liste per il rinnovo di 24 amministrazioni locali. Si va man mano componendo il quadro di liste e coalizioni anche per le comunali dopo la chiusura dei termini per le regionali. Il 2-3 aprile si vota in 24 municipi tra cui Udine e Sacile, dove sono possibili i ballottaggi. Nel capoluogo friulano hanno già superato la doppia cifra le liste presentate con le relative firme allegate a sostegno di 3 diversi candidati sindaci: Pietro Fontanini, Alberto Felice De Toni e Stefano Salmè. Per l'uscente Fontanini, centrodestra, hanno depositato Lega, Fratelli d'Italia, UDC, Identità Civica e la Civica per Fontanini. Partito Democratico, Terzo Polo, Alleanza Verdi Sinistra e Civica De Toni hanno invece consegnato la documentazione per sostenere il candidato della coalizione progressista. Con Salmella, Civica Io Amo Udine, Liberi Elettori. A Sacile il conto provvisorio di 6 liste collegate a 4 candidati sindaci: Carlo Spagnol, centrodestra, Patrizia Del Col, centrosinistra, e i civici Mario Modolo e Anna Piemontese. Nei prossimi giorni gli uffici preposti valuteranno se ammettere o escludere le candidature. Un lavoro già in corso per le regionali, dove si sono proposte 13 liste in appoggio a 4 aspiranti presidenti. Tra i 24 comuni al voto ce ne sono 6 sopra i 10.000 abitanti, oltre a Udine e Sacile, Fiume Veneto, Gemona, Spilimbergo e Tavagnacco. I 236.000 cittadini chiamati ai seggi per le comunali eleggeranno 396 consiglieri in tutto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Si svolgerà oggi in prefettura a Trieste la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale, l'organo della giustizia amministrativa. La cerimonia avrà luogo alle 11 nel salone di rappresentanza della prefettura. La cronaca: un incendio è divampato poco prima delle 21 di ieri in località San Giorgio, Aresia. Le aree interessate dalle fiamme si sono estese per circa 50-70 metri. Si trattava di prato e sterpaglie in pendenza. Per aver subito la meglio sul rogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Gemona con botte, pick-up con modulo, i pompieri volontari di Moggio Udinese, gli uomini del corpo forestale regionale di Aresia e la squadra comunale di protezione civile. Anche gli abitanti della zona sono intervenuti con coperte bagnate per tenere sotto controllo l'incendio fino all'arrivo dei soccorritori che hanno spento le fiamme e bonificato l'area dopo un'ispezione con termocamera per scongiurare eventuali riprese durante la notte. In montagna nevica sempre meno, un problema non solo per le risorse idriche che si annunciano ancora una volta insufficienti, ma anche per l'economia che ruota intorno agli sport invernali. Il servizio. Secondo anno di seguito di grave deficit idrico, il peggiore inverno negli ultimi 4 per entità di manto nevoso. Davanti a questo scenario, scienziati ed accademici sollecitano riflessioni urgenti sulla riconversione economica della montagna. Entro il 2050, per esempio, la quota alla quale si potrà produrre neve artificiale salirà tra i 2 e i 300 metri. Federico Cazzorzi, professore di idrologia all'Università di Udine. A parte l'aspetto legato all'enorme consumo di acqua e all'enorme consumo soprattutto di energia necessari per fare innevamento artificiale, c'è anche da dire che i limiti dell'innevamento artificiale sono legati comunque alla temperatura e al clima. Alessandro Peressotti, professore di agroecologia all'Università di Udine. La grande difficoltà che ci sarà in Friuli Venezia Giulia sarà questa grande discontinuità nell'innevamento. Ci attendono anni con tanta neve e anni con poca neve. Sicuramente dobbiamo ripensare al modello, a un modello di sviluppo. Ivana Bassi, docente di economia rurale e montana all'Università di Udine. Ci sono alcuni esempi che possiamo prendere anche se non copiare. Penso a un esempio vicino a casa nostra, che è quello del Monte Dobrash e del parco del Monte Dobrash, che ha subito un percorso di riconversione, quindi oggi si pratica sci alpinismo, si ciaspola nella nostra regione, deve essere adattato alle nostre montagne, che hanno delle peculiarità, hanno delle caratteristiche anche desiderate. Sono montagne magari aspre, selvagge, poco addomesticate. Una progettualità non semplice che dovrebbe essere già in atto, indicano i docenti, e che dovrà anche valorizzare attività silvopastorali, artigianato, mondo digitale e welfare per dare nuova attrattività ai territori in quota. Attorno a un'economia che include e che coinvolge le maestranze della montagna anche nel comparto agricolo e zootecnico, è possibile sicuramente trovare un'alternativa economica all'attività del turismo di massa. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un convegno ieri a Trieste ha fatto il punto sul settore nautico come volano del turismo per rilanciare una filiera che può generare ricchezza e occupazione. Sentiamo. Tanti posti barca e ora anche l'attenzione dei fondi internazionali, ma un gap da colmare nei servizi offerti. Il turismo nautico è una grande opportunità per il Friuli Venezia Giulia, che negli ultimi 3 anni ha visto crescere i posti barca del 20%. Fra gli obiettivi, attrarre i mega yacht e sviluppare l'houseboat. Antonio Paoletti, presidente Assonautica Trieste. Abbiamo tante barche a vela, per fortuna tanti motoscafi, però abbiamo le società nautiche piene di propri soci. Non abbiamo tanti spazi per accogliere i turisti. Ecco, questa è una cosa che manca, abbiamo gli spazi per farlo. Nel Tirreno abbiamo i mega yacht che sostano, svernano, perciò danno un indotto economico non da poco, per le riparazioni, le fitting, eccetera. Vorremmo farlo anche qua. Adesso sta andando di moda anche houseboat, cioè quello di vivere nelle barche ormeggiate nelle marine, per cui su Trieste c'è tanta richiesta e dobbiamo attrezzarci. Un momento chiave per il comparto sarà la redazione del nuovo piano triennale del mare. Su questo Assonautica Italiana rivolge un appello agli stakeholder. Il presidente Giovanni Acampora. Bisogna ragionare in maniera universale rispetto alle diverse filiere che compongono l'economia del mare, e affinché possiamo dare dignità a questo nostro paese e mettere in campo una nuova strategia marittima. A Trieste un ruolo fondamentale è quello della Barcolana, che Assonautica ha scelto per ospitare i Blue Marine Award. E da Trieste passa anche uno dei 17 itinerari tracciati con il progetto Scopri dove ti porto. Francesco Di Filippo, vicepresidente Assonautica Italiana. Il progetto prevede 17 itinerari per scoprire il patrimonio culturale naturalistico italiano attraverso il mare. Uno è anche del nord Adriatico, che appunto si conclude proprio a Trieste, con la suggestione e il racconto di tutte quelle che sono le bellezze ovviamente del territorio e soprattutto nell'evento della Barcolana. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo per un attimo alla politica per una precisazione che riguarda la presentazione delle liste per i candidati a sindaco di Udine. Ieri sera, prima della chiusura degli uffici, sono state presentate anche le liste a sostegno della candidatura di Ivano Marchiol. Sono Movimento 5 Stelle, Udine Città Futura e Spazio Udine. Sono 170 le domande a oggi pervenute per accedere a finanziamenti del bando regionale per l'utilizzo delle energie rinnovabili, per un totale superiore a 16 milioni di euro. L'84% delle richieste proviene dalle piccole e medie imprese del comparto manifatturiero, il 5% dal settore del commercio, il 4% dai servizi di alloggio e ristorazione, il 7% da altri settori. Il bando, aperto lo scorso 15 febbraio, è dedicato alle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia per la produzione e l'autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Ha una dotazione complessiva di 55 milioni di euro, di cui 24 di fondi europei e 31 di risorse stanziate a valere sul bilancio regionale. Sono benvenute tutte le misure in grado di intervenire in modo strutturale sulla diversificazione delle fonti energetiche e soprattutto spingendo sulle rinnovabili. A dirlo ieri la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, introducendo l'incontro di approfondimento promosso dagli industriali friulani in collaborazione con la Regione sul bando regionale per l'utilizzo delle rinnovabili. Rispetto al 2021, l'anno scorso le imprese del Friuli Venezia Giulia hanno subito un aumento dei costi a causa del rincaro delle bollette di circa 2 miliardi 400 milioni, ha ricordato Mareschi Danieli. Il presidente della Commissione Energia di Confindustria Udine, Marco Bruseschi, ha fornito invece i dati aggiornati sulle installazioni di impianti fotovoltaici. Nel 2022 in regione sono stati installati 64 megawatt per un totale di oltre 6.000 impianti. Un ritmo che ha ripreso il trend pre-pandemia, ma che è ancora troppo lento, ha concluso. E ammonta a 21 milioni di euro l'utile netto che Credi Friuli ha iscritto nel bilancio 2022. Le masse amministrate hanno sfiorato i 3 miliardi con un incremento del 5%. Aumenta anche la raccolta diretta, più 7%, e gli impieghi. La BCC ha registrato l'apertura di oltre 2.700 nuovi conti correnti e l'ingresso di oltre 350 nuovi soci, che in totale ora sono quasi 11.000. 180 i collaboratori dell'istituto. L'impennata dei tassi è stata affrontata anche con interventi personalizzati per ricalibrare e rendere sostenibili le rate dei mutui, ha detto il presidente Sartoretti. Per la riqualificazione del patrimonio edilizio, Credi Friuli ha acquistato oltre 500 crediti fiscali per un valore di 53 milioni. Dopo l'attivazione di un presidio di guardia notturna, il pronto soccorso dell'ospedale triestino di Cattinara è attivo da ieri, sia al mattino che al pomeriggio, anche un presidio fisso di polizia, un provvedimento preso in seguito alle richieste presentate dai sindacati CGIL, CISL e FIALS, dopo i numerosi casi di aggressioni o intemperanze nei confronti del personale sanitario che si sono verificate negli ultimi mesi. Resta prioritario, in ogni caso, hanno scritto in una nota ai rappresentanti dei lavoratori, rivedere l'organizzazione del lavoro in tutte le strutture più vulnerabili, implementando la formazione specifica e aumentando gli organici. Ma sentiamo Fabio Potocnik, segretario della FIALS di Trieste. Ci sono state delle aggressioni lo scorso anno, no? Sia nel pronto soccorso sia nei servizi di diagnosi cura e anche nei CSM, e a seguito di questo, congiuntamente con CGL e CIS, abbiamo fatto questa richiesta alle direzioni per intervenire in modo da cercare di scongiurare queste aggressioni, anche con dei deterrenti che possono essere quelli della presenza o della guardia giurata, come è stata istituita da gennaio presso il pronto soccorso di Cattinara ogni notte, e adesso da oggi dovrebbe iniziare questo servizio del presidio di polizia fisso a Cattinara sia al mattino che al pomeriggio. Che cosa cambierà in termini di sicurezza sul lavoro per appunto gli operatori del pronto soccorso? È evidente che la presenza di una divisa potrebbe essere un aiuto a garantire la sicurezza di chi lavora, svolge la sua attività per cercare di guarire le persone. Oltre agli episodi che vi hanno spinto a questa richiesta, voi come sindacati nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, riscontrate una crescita di episodi del genere, di aggressioni o comunque di episodi violenti nei confronti dei lavoratori? Quando è scoppiata la pandemia, tutti gli operatori venivano chiamati angeli, eroi. Finito questo momento, abbiamo riscontrato sicuramente una maggiore aggressività. Il Consorzio Centro in Via, insieme a Opicina, e l'Associazione Culturale Marino Simic organizzano un incontro pubblico sulla sicurezza sul Carso, che si terrà alle 18 nella Sala della Banca di Via del Ricreatorio 2. All'ordine del giorno dell'incontro, organizzato alla luce dei recenti fatti di cronaca di Opicina, Monrupino e dell'Altipiano Carsico in genere, ci sarà l'analisi delle criticità presenti e i suggerimenti per una buona prevenzione. Un nuovo incontro pubblico a sostegno della candidatura all'UNESCO del rito del caffè espresso italiano come patrimonio immateriale dell'umanità, oggi a Trieste, con inizio alle 15:30 alla sala Baslen di Palazzo Gopcevic, aperto a tutti. L'incontro, organizzato dall'Associazione Museo del Caffè di Trieste, vedrà la partecipazione delle maggiori realtà caffeicole triestine del Club UNESCO di Udine, con il supporto del Comune di Trieste. Arriverà a Trieste in luglio, in prima nazionale, Il Fantasma dell'Opera, il musical dei record coprodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Dal suo debutto a Londra nel 1986, lo spettacolo è stato visto da oltre 145 milioni di persone. Biglietti in vendita dal 3 marzo. Sentiamo. I am your angel of music. Si annuncia come l'evento teatrale dell'anno, il debutto in prima nazionale il prossimo 4 luglio al Politeama Rossetti di Trieste dello storico e super premiato musical Il Fantasma dell'Opera, The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber. Si tratta di una nuova produzione nata dalla collaborazione tra Broadway Italia e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, punto di riferimento italiano per gli appassionati del genere. Protagonista è Ramin Karimloo, attore iraniano naturalizzato canadese, tra i più stimati interpreti di musical, già Fantasma dell'Opera, tra l'altro, alla Royal Albert Hall di Londra. Lo spettacolo in scena a Rossetti fino a metà luglio è in lingua inglese con orchestra dal vivo e la regia di Federico Bellone. La storia è quella di un geniale musicista dal volto sfigurato che vive nei sotterranei dell'Opera di Parigi, perdutamente innamorato della giovane bella soprano Christine. Quando scopre che la ragazza è già legata a un altro, il suo amore diventa ossessione e follia. Dal suo debutto a Londra nel 1986, Il Fantasma dell'Opera è stato visto da oltre 145 milioni di spettatori. Trieste, Marinella Chirico, TGR Friuli Venezia Giulia. Spettri, una delle opere più significative del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen, arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine nel nuovo allestimento del Teatro Stabile del Veneto, segnando il ritorno sulle scene dopo 10 anni di assenza di Andrea Jonasson. La compagna di vita di Giorgio Streller da oggi a giovedì 2 marzo sarà protagonista dell'atto unico alle 20:45. Regista il lituano Rimas Tuminas, mentre l'adattamento del testo è curato da Fausto Paravidino. Recitazione, musica dal vivo, canto e danza è Tango Macondo, scritto e diretto da Giorgio Gallione, in scena il jazzista Paolo Fresu e Ugo Dighero. Lo spettacolo, prodotto dallo Stabile di Bolzano, è ospite della stagione del Politeama Rossetti questa sera alle 20:30 e domani, 1 marzo, alla stessa ora. Alexander Detmar, autore delle opere della mostra Dipingere per ricordare, sarà per la prima volta in Italia, a Trieste, al Museo della Comunità Ebraica Carlo e Vera Wagner alle 17:30. Dipingere per ricordare, la mostra diffusa sul territorio del Friuli Venezia Giulia, in Slovenia, Nova Gorica, Gorizia, città europea della cultura, inaugurata in occasione della giornata della memoria lo scorso 24 gennaio a Trieste e poi nelle altre sedi, è ancora visitabile a Nova Gorica fino a domenica 26 febbraio, a Gorizia, San Daniele del Friuli e Trieste fino a fine marzo. Prosegue al Teatro Miela di Trieste la 32esima edizione della rassegna internazionale di cinema di montagna Alpi Giulie Cinema, organizzata da Monte Analogo in collaborazione con Arci Servizio Civile. Dalle ore 18 alle 23:30 si terrà l'11esima edizione di Hell's Bells Speleo Award, il concorso riservato al mondo speleologico. Alle 17:30 alla Sala Bartoli Red Canziane e alcuni interpreti di Casanova Opera Pop incontreranno la stampa e il pubblico per presentare lo spettacolo, che sarà in scena il 2-3 marzo al Politeama Rossetti di Trieste e a Gorizia il 1 marzo. Quella del campo di internamento sull'isola di Arbe, in cui tra il 1942 e il 1943 furono rinchiusi oltre 20.000 trasloveni, croati ed ebrei e ne morirono almeno 3.500, è una delle pagine più cruente della storia dell'occupazione italiana della Slovenia durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste verrà presentato Confinare, un documentario sul viaggio compiuto da alcuni studenti dell'Università di Trieste e Udine proprio ad Arbe e a Lubiana. Abbiamo intervistato Luciano Santin, presidente del Circolo della Stampa, che ha organizzato il viaggio. Mi hanno reso conto di un viaggio di istruzione, memoria e testimonianza fatto con studenti dell'Università di Udine e di Trieste in due luoghi simbolo dell'invasione italiana nel regno di Jugoslavia tra il 41 e il 43, il Poz Pominov, che è il sentiero che ripercorre il tracciato dei cavalli di Frisia, reticolati, bunker che circondava Lubiana per isolare il territorio, che non ci fosse il contagio partigiano, e poi il campo di concentramento di Arbe, oggi c'è un sacrario al suo posto, dove sono morti 1.400 persone, cioè il 20% degli internati, secondo le stime dell'esercito italiano. E chi erano gli internati del campo di Arbe? Erano o sospetti di convenienza o persone che, essendo stati bruciati i loro villaggi, in quanto l'esercito avanzando voleva lasciarsi terra bruciata alle spalle, non avevano dove andare, allora sono stati messi in tende, però in condizioni disumane dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare e di temperatura. È stata una storia dolorosissima e totalmente rimossa, perché di queste cose in Italia non si è mai parlato, sinché il presidente Sergio Mattarella, proprio pochi giorni fa, non ha nominato le violenze senza soluzione di continuità di queste terre, citando Risiera, Foibe e Arbe. Perché per tutti questi decenni in Italia si è parlato così poco di questa vicenda? Intanto si voleva tenere buono Tito, che era il cuscinetto fra il blocco russo e l'Occidente. Poi perché avrebbe fatto saltare fuori dei criminali di guerra italiani. Non è mai stato punito uno. E quindi una serie di regioni ha fatto stendere un velo di silenzio colpevole sull'enorme quantità di violenza che è stata perpetrata in queste terre e che ha di fatto fatto di tutti carnefici e vittime. Il pianeta delle piante è il titolo della Lectio Magistralis che sarà tenuta oggi al Castello di Miramare dal neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, autore di diversi libri sull'intelligenza delle piante. La conferenza, che inizierà alle 15.30, sarà aperta al pubblico previo acquisto del biglietto d'ingresso al museo e fino a esaurimento dei posti disponibili e con prenotazione. Siamo allo sport con il calcio. Buon pari del Pordenone a Salò nel posticipo di Serie C. Finisce 1-1 la sfida ad alta classifica tra la Feralpi e i Neroverdi, che recuperano nel giro di un minuto compinato il gol dello svantaggio subito su rigore a fine primo tempo. Neroverdi che ora sono quarti in classifica. Allo stadio Lino Turina di Salò si affrontano Feralpi e Pordenone. In palio, in caso di vittoria di una delle due formazioni, c'è il primo posto solitario in classifica. Neroverdi più pericolosi nel primo tempo con Dubicas, la cui conclusione della distanza è destinata all'angolino, ma trova la risposta del numero uno di casa. È un arrembaggio continuo da parte dei Neroverdi, ma al 41esimo Martinez cerca il pallone in uscita e lo perde travolgendo Candellone, che cadendo a sua volta tocca il pallone col braccio. Per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore che Pittarello realizza con un tiro potente e centrale. Il vantaggio dei Lombardi dura appena un minuto perché, a pochi secondi dall'intervallo, arriva il pari immediato con Pinato che stoppa di petto e si gira prontamente trovando l'angolino giusto per l'1-1. A inizio ripresa, dopo le proteste degli ospiti per un tocco di braccio di Pilato che stoppa involontariamente il pallone, i padroni di casa cercano di accelerare i ritmi e si fanno pericolosi al 67esimo quando Bruscanin perde un brutto pallone e permette la ripartenza dei suoi, con Negro che si rivela decisivo per rimediare all'errore del compagno. Finisce in parità, ma la squadra di Di Carlo può recriminare per aver fallito in pieno recupero una chiara occasione da gol con Edera, il cui colpo di testa viene miracolosamente neutralizzato in tuffo dal portiere Pizzignacco, che salva così il risultato e consente alla Feralpi di agganciare al primo posto in classifica Lecco e Prosesto a quota 51, mentre il Pordenone segue subito a ruota con 50 punti. Il commento di mister Di Carlo. Una buona squadra come sono le altre 4-5 che sono lì davanti, compreso il Vicenza, quindi sono quelle le squadre che si giocheranno questa promozione. Però oggi abbiamo fatto una gara di spessore alto. Giorgio Bearz, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket, in vendita da oggi i biglietti per l'attesa sfida della Pallacanestro Trieste contro Treviso, in programma domenica 5 marzo alle 18.30 all'Allianz Dome. Per questa gara non sarà possibile acquistare i tagliandi online, i biglietti saranno messi in vendita solo nelle biglietterie dell'Allianz Dome. Oggi, domani, giovedì e venerdì la biglietteria sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato solo dalle 10 alle 13, sempre dall'ingresso VIP di via Ercole Miani. Domenica biglietti in vendita dalle 16.30 fino alla fine del secondo quarto della partita nella biglietteria di via Flavia. Alle 7.48 la nostra rassegna stampa. Iniziamo dal piccolo di Trieste che apre sull'economia. Vola il turismo della nautica, 2.800.000 presenze, posti barca cresciuti del 20%. Il settore dà lavoro a oltre 2.000 persone. A centropagina gli spettacoli con una fotonotizia, il fantasma dell'opera da Broadway a Trieste debutterà a luglio. Tra i richiami, un titolo sulla sanità, attese accorciate e più posti letto al pronto soccorso di sanità al pronto soccorso di Cattinara, e uno sulla viabilità. Camion e furgoni, l'area logistica di via Cumano agita i residenti. A fondo pagina la notizia della riapertura della piscina termale di Grado, mentre in alto un richiamo alle notizie dai Balcani. Serbia-Kosovo, prima intesa con la mediazione dell'Europa. Nelle pagine economiche un titolo su Generali a caccia di start-up, lanciato un fondo per il Venture Capital. Spazio alla politica invece nelle pagine di cronaca cittadina. Il comune appeso al voto regionale, con 3 assessori in corsa e 2 a Roma, ecco i possibili scenari su come cambieranno giunta e aula. Tornano le prove in Valsi, test per 45.000 studenti fino al 9 maggio. I maturandi iniziano domani l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. Nella fotonotizia il deposito delle liste, sono 14 a sostegno dei 4 candidati a sindaco di Udine. Di spalla alla cronaca, Vincenzo Paglialonga, accusato di aver accoltellato a morte la vicina di casa, l'udinese Lauretta Toffoli, vizio parziale di mente, riconosciuto in altri 2 procedimenti per evasione dai domiciliari e violenza privata e molestie sempre ai danni di un condomino. Sotto finto invalido chiede l'elemosina e viene denunciato, è successo a Tavagnacco. E ancora, maltrattò la madre, condannato a 4 anni e 2 mesi un 60enne lignanese. Il giudice ha detto episodi connotati da malignità. In taglio basso il poeta dell'arte, giornalista Licio Damiani nel Famedio udinese. Negozi in 10 anni, il 17% ha chiuso e l'apertura del Gazzettino con il suo inserto del Friuli, poi le bollette raddoppiate per le famiglie friulane, accanto le liste per le comunali, sotto la nuova protesta allo Stringer per una assemblea saltata. In taglio basso lo sport, tra Udinese con Pozzo che tiene a rapporto giocatori e staff, basket con il prossimo derby Udine Cividale e il volley. Sul piccolo di Gorizia il titolo principale è sempre sul turismo della nautica, mentre la fotonotizia è dedicata alla cronaca. La bonifica porta alla luce una galleria della Grande Guerra, è successo a Campagnuzza. Tra i richiami la povertà a Cormons con la Caritas che ha consegnato 640 borse spesa in un solo anno, e poi la sanità con Panzano che ricorre all'infermiere di comunità mentre aspetta il medico. Infine la politica, Fasiolo Moretti per le regionali e derby isontino. A fondo pagina lo sport, il curling bisiacco esportato in Carnia. Nelle pagine di cronaca locale l'apertura è dedicata al percorso verso Nova Gorizia, Gorizia capitale della cultura 2025. Dal GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, il fondo Piccoli Progetti. Aperto il primo bando da 3 milioni, la scadenza per la presentazione delle proposte è il 21 aprile. I bulli al 13enne diamo fuoco, adolescente vittima del branco, già finito in ospedale una volta, la madre denuncia le violenze sui social. Questa è l'apertura dell'inserto di Pordenone del Gazzettino. Nella fotonotizia Ramarri in rimonta sul Garda e Ciriani apre al nuovo stadio. Di spalla voto in regione, nessuna irregolarità, tutte ammesse le liste nei comuni al voto, presentati i primi schieramenti, e ancora un titolo pieno di gasolio, Anna evacuato il danno e la beffa, niente rimborso per l'automobilista. Controlli in centro dopo le risse sul Messaggero Veneto di Pordenone nella fotonotizia di apertura. In una fascia i richiami di cronaca, 3 anni per una visita oculistica, denuncia un'anziana ipovedente. A fianco il SID Ciriani al nuovo stadio, ma servono 10 milioni e ancora Sacile, presentate quasi tutte le liste, manca soltanto il terzo polo. In basso il Pordenone, a Salò sfiora il colpaccio. Alcune notizie di servizio. Oggi dalle 14 alle 19 la multiutility Acega SPS Amga procederà alla sospensione nel centro storico del comune di Muggia, tra via Roma, Calle Verdi, salita ai Piai fino all'area del Porticciolo, del servizio idrico. Al ripristino dell'erogazione è raccomandato di far scorrere l'acqua per alcuni minuti fin tanto che torni limpida. Ricordiamo ancora che fino a venerdì 3 marzo l'ufficio passaporti della Questura di Pordenone sarà aperto al pubblico dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 per chi ha già ottenuto un appuntamento con prenotazione online o chi abbia necessità di anticipare la data del rilascio del passaporto per ragioni urgenti. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vue o Fevelin di. Alle 11.20 a Radar fenomeni naturali estremi tra terremoti e cambiamenti climatici. I programmi regionali torneranno poi alle 13.30. In regia Eugenio Giuffrida e Tommaso Vinoni, in redazione ha collaborato Laura Sarasini, da Daniele Letti, Gerita Amicoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.